Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche in quest'altra puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi va una sorta di amarcord, perché entriamo nei ricordi di un anziano signore, Luciano Tribbi, che al tempo era responsabile, dal 47 al 53, dell'Associazione Pionieri d'Italia per Besero ed Urbino. E quindi in queste cartoline che ci vengono ammanite troviamo tanti flash di come si viveva, come ci si relazionava, come ci si organizzava in quegli anni nella edificazione di una cultura diversa che non fosse quella più che pervasiva di origine cattolica tradizionalista. Al microfono di Morina Moretti, per l'appunto, Luciano Tribbi racconta il suo passato di pioniere. Luciano Tribbi, tu sei tra i primi organizzatori dell'Associazione Pionieri Italiani nella provincia di Pesaro. Stiamo parlando di anni che sono il 1949-1950. E tu che cosa facevi prima e quanti anni avevi? Si può dire che ero giovanissimo. Dunque, però, noi i pionieri li abbiamo iniziati nel 1947. Io avevo fondato i Pionieri della Repubblica. Avevamo fatto una tessera, quindi praticamente c'erano diverse centinaia di ragazzi, di bambini, in modo particolare di Villa Fastigi, la San Pietro in Calibano. Era un grosso rione in cui tutti questi bambini erano figli di compagni comunisti della sinistra che erano tutti iscritti ai pionieri. Fondare proprio un'associazione pionieri ancora prima che ci fosse quella nazionale era una cosa che si stava comunque sviluppando in varie realtà italiane. Sì. Dopo, successivamente, infatti, con Adele Bay ci preparò 2000 tessere addirittura da distribuire in tutta la provincia di Pesaro e Urbino e a tutte le sezioni del Partito Comunista, però molte di queste non se ne fece niente, però molti iscrissero ai pionieri. Anche avevamo una colonia dei figli martiri della libertà in cui avevamo distribuito diverse decine di tessere a questi ragazzi che erano tutti contenti, che erano qui al mare a Pesaro. Però io poi mi ricordo, conoscete anche Gianni Rodari lo portai anche in macchina su a casa a Ravenna, mi sembra. Adesso, sai, è un po' difficile riferire. Sì, in anni, forse qualche anno dopo. Sì, qualche anno dopo. E infatti Rodari mi scrisse in un suo libro che io avevo per un bambino di Kiev, nell'Ucraina, e mi scrisse un aneddoto fatto da Rodari, tant'è vero che lo portai là a Kiev, lo regalai a sto bambino che lo portò nella scuola. Tutti rimasero allibiti di vedere sto schizzo di Rodari, che nessuno pensava di poterlo avere naturalmente, però questo ragazzo lo vide e lo distribuì. Ricordo che anche una volta, durante una festa, per distribuire il pioniere, c'era sempre la famosa licenza. Mi denunciarono e dovetti andare in pretura a rispondere per violazione all'articolo, mi sembra, il 116 del codice penale. Tant'è vero che il giudice, appena vide il giornalino, si mise quasi a ridere e disse: dai, cosa facciamo? Ridere ai polli, fare anche le multe e denunciare chi distribuiva questo pioniere. Sì, che però erano gli anni 50, quindi c'era appunto questo ostracismo nei confronti poi della stampa comunista, quella che è anche per quella dei ragazzi. E quindi tu hai fatto questo lavoro proprio di un formatore, un ragazzo più grande che organizzare i più piccoli. Infatti veniva diverse volte a Pesaro e Pagliarini, Carlo, infatti c'è una fotografia mia e di Carlo anche nel sito, in quale veniva a Pesaro ogni tanto per vedere come andava un po' la situazione organizzativa. E che cosa mi dici di Carlo Pagliarini, perché era una persona, mi dicono, schiva ma anche molto disponibile. Sì, sì, io infatti con Carlo ero molto amico, era molto disponibile, perché infatti è venuto diverse volte a Pesaro a trovarmi, perché sapeva che svolgevamo un'attività in questo senso per i ragazzi. Io ricordo anche una volta in una cooperativa qui vicino, io perché dopo avevo la motocicletta e una macchina da proiezione, proiettavamo anche i film di Charlotte, tutto il genere, ci siamo attirati anche un po' le antipatie della curia, del clero pesarese, perché ai bambini quando venivano fuori dalla scuola un mezz'ora la passavano con noi per vedere questi filmati, che allora non è che c'era la televisione o internet oppure gli altri aggeggi, certo, elettronici. Senti, quindi Carlo Pagliarini, che era il responsabile nazionale dell'API ed è stato, sì, lui poi l'ideatore di questa associazione, lui era un responsabile nazionale, quindi girava poi per, sì, le, sì, per, sì, le periferie. Tu sei mai stato a qualche riunione nazionale dell'associazione API? No, sono stato io a Reggio Emilia, al congresso di Reggio Emilia. Vagamente mi ricordo che mi sono venuti a prendere alla stazione ferroviaria, mi portarono in una casa da loro dopo aver assistito anche all'inaugurazione. Sai che noi a Pesaro addirittura l'amministrazione comunale di allora ci diede anche un capanno al mare, pensa, un capanno al mare proprio riservato ai pionieri, tant'è vero che io avevo inoltre messo in mostra, avevo fatto la bandiera di colore con la scritta pioniere della Repubblica, purtroppo che è andata persa nel tempo. Sai. Quindi il Pesaro, diciamo che il comune di Pesaro era abbastanza disponibile con questa associazione. Sì, no, avevamo degli assessori allora molto disponibili, Ciro Lupieri, che era un nostro compagno che partecipava dalla parte nostra praticamente, aveva fatto dare sto capanno in legno, adesso sono tutti in muratura, no? Invece ci aveva fatto dare quel capanno in legno che i bambini andavano giù molto volentieri al mare e utilizzavano questo capanno. Cioè, quanti iscritti avevate negli anni migliori? Noi avevamo, diciamo, 110 a San Pietro in Calibano, tant'è vero che c'è anche il padre addirittura del presidente della regione Ceriscioli, che adesso è oltre novantenne, e altri, alcuni che ancora sono viventi. Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette, diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo quinto. Di fiori si vive, di vento no. Ora udrete come andò. Sul davanzale della casetta c'erano dei fiori in una cassetta. Rose, garofani, gerani, dalie, zinnie e tulipani. Pulcinella si fece coraggio e primo ai fiori diede l'assaggio. Io di gerani sono assai ghiotto, li trovo più buoni del risotto. E Arlecchino disse: la rosa ha una cera più appetitosa. Inoltre, ricordo, il saggio scrive: di solo pane non si vive. E sospirando i nostri amici non lasciarono che le radici. Dopo il pasto, veramente più profumato che nutriente, sulle radici si sdraiarono e di colpo, pum, si addormentarono. Ma li sveglia ben presto un vocione. Oh cielo, dei fiori, ecco il padrone! Non sapete che è vietato cogliere i fiori e pestare il prato? Servi, olà, chiamate il boia, tagliarvi la testa sarà la sua gioia! Ma Pulcinella, sempre astuto, non se ne stette mica muto. Eccellenza, in verità, di teste di legno, ma che se ne fa? Temo che il boia poi ci rimetta anche il filo dell'accetta. Per non sciupare il filo alla scure, tagliando teste tanto dure, il mugnaio li perdonò, ma a lavorare li mandò. Dietro la casa, in fondo al giardino, c'era un grazioso vecchio mulino. Di quelli d'Olanda con quattro pale che girano al soffio del vento maestrale. Siccome il vento però non soffiava, il mulino non girava. Non si poteva mica far la farina, né quella scura né quella fina. Il mugnaio non si spaventa, una la pensa, un'altra l'inventa. Per far girare le quattro pale trovò un sistema originale. Ci mise Arlecchino e Pulcinella a soffiare della più bella e Colombina a dare una mano col suo ventaglio veneziano. Soffia, sventaglia, si fa un po' di brezza, le pale girano che è una bellezza ed in ingranaggio ogni rotella si mette in viaggio. Tutto il giorno i tre poveretti soffiano, soffiano, soffiano, soffiano come zeffiretti. E di nota il fatto è degno perché avevano polmoni di legno. Dopo 10 ore di quella pena venne infine l'ora di cena. Il mugnaio aveva appetito perché non aveva mosso un dito. Mangiò pane bianco con vino sincero e ai tre zeffiretti diede pane nero. Io di solito, amici cari, al vento non do né pane e né denari. Fa Pulcinella. Alla buon'ora, mangia soltanto chi non lavora. Qui, se un giorno di più si resta, ci rispunta il filo in testa. E appena il mugnaio si addormentò, il nostro terzetto di nuovo scappò. Capitolo sesto. L'orsa Sidonia e l'orso Ruggero ballano il valzer del trallallero. Capitarono in una foresta dove c'era una ricca festa, perché si sposavano con gran cerimonia l'orso Ruggero e l'orsa Sidonia. Lo sposo era bianco, la sposa era bruna, ma per fortuna c'era la luna, e al pallido lume che essa mandava la differenza non si notava. I testimoni erano due marmotte che dormirono tutta la notte. Il sindaco era un bel fagiano che alla sposa baciò la mano. Offrì da bere a tutto il paese e fece anche un brindisi in francese. À la maison! Catherine de Neu! Sotto una quercia stava la banda e uno scoiattolo che la comanda. Con la coda e senza bacchetta segnava il tempo di una marcetta. L'orsa Sidonia e l'orso Ruggero ballarono il valzer del trallallero e un pappagallo del Brasile danzò una samba con molto stile. Pulcinella propose allo sposo con un inchino assai dignitoso. Dopo il ballo, se lei permette, si fa uno spettacolo di marionette. L'orso Ruggero fu proprio contento di quel nuovissimo divertimento e Pulcinella la recita aprì e al colto pubblico disse proprio così: egregi signori, gentili signore, di presentarci abbiamo l'onore. La nostra emerita compagnia ha recitato a Monza e a Pavia. Fu applaudita dal sultano e dal presidente indotoscano. Successi ed allori mietemmo di già a Massa Lombarda e a Bogotà. Ne vedrete di belle e di rare, lo spettacolo va a cominciare. Che battimani calorosi, fu il trionfo, l'apoteosi! Nell'entusiasmo Sidonia, perfino nell'applaudire, si ruppe un ditino. Faranno carriera, qua e là s'udiva. Avranno la gloria televisiva. Ma Pulcinella borbotta: i miei denti non mastica mica complimenti. E ai grandi attori in un salotto fu offerto un pranzo molto ghiotto. 7 portate di salame per stuzzicare alquanto la fame. 8 di pollo in gelatina per farsi venire l'acquolina. 9 torte di cioccolato e infine polenta col gelato. Il fagiano, tipo raro, fece un brindisi in magiaro. Ma ormai Pulcinella russava, direi, in dialetto di Pompei. Oi! Oi, hobbits! Il giorno dopo tutti quanti vanno in città fra balli e canti per dare spettacolo di varietà alla fiera di Fattinla. In prima fila marcia la banda con lo scoiattolo che la comanda. Dietro vengono Sidonia e Ruggero, ballerini in bianco e nero, e in coda al corteo lo storico mette le 3 famosissime marionette. Qui torniamo a Te lo domando e abbiamo notizie di Don Ferdinando. Mentre gli amici vanno alla fiera, io vedo in cielo una nube nera. Vien dalla parte di Te lo domando. Sarà un tornado? Ma che? È il Sor Fernando! Allarme, pericolo! Che cosa vuole? Vi metto al corrente in 2 parole. Ricorderete che Malvasia era stato all'osteria e avendo bevuto più di un tantino dormì come un sasso fino al mattino. Fino al mattino dormì a meraviglia per digerire la prima bottiglia. Per digerire le altre 2 botti russò come un tasso 2 giorni e 2 notti. Il terzo giorno si svegliò, contò i burattini e non si sbagliò. La regina, lingua invidiosa, gli svelò subito ogni cosa. E il Sor Fernando, fiutando la traccia dei fuggitivi, si mise in caccia. Giunto in riva al fiumicello, per traghettare non c'era un battello, ma c'era sempre quel vecchio salmone impiccione e chiacchierone. Scommetto, compare, che so dove va, alla fiera di Fattinlà. Sì, forse può darsi, d'altronde è probabile. Ma c'è uno spettacolo mirabile! Reciteranno tre forestieri, attori di grido e giocolieri. Che disdetta essere un pesce, di star fuor d'acqua non mi riesce. Forse al ritorno, egregio compare, lei la commedia mi può forse raccontare? E Don Fernando: le pare? Ma certo, io poi dell'arte sono un esperto. Mentre il salmone lo ringraziava, di gioia ghignando a terra balzava, e per raggiungere in tempo alla fiera prese a nolo una corriera. Piombò sulla piazza cittadina con una palla di carabina, in tempo a vedere Pulcinella che attaccava la tarandella. Vi ho preso, furfanti, vi ho preso, birboni, vi porto a casa, scapaccioni! Colombina e Arlecchino non persero tempo a fargli l'inchino. Pulcinella, a tempo di ballo, scappò via più veloce di un cavallo. E clopte, clopte, clopte, clopte, clopte! Per tre diversi vicoletti, come volarono i tre poveretti! Corsero sempre e non si voltarono, e infine più non si ritrovarono. Fernando si getta all'inseguimento, ululando da far spavento. Ma Sidonia e il buon Ruggero non si spaventano davvero. Anzi, lo prendono di qua e di là per fargli ballare il cia-cia-cia. E cia-cia-cia, e cia-cia-cia-cia-cia-cia-cia. Aiuto, soccorso, aiuto, soccorso! Lui smania e tuona, ma la banda suona, suona, suona. Attacca una rumba, attacca una raspa, e il sor Fernando strilla, annaspa. Ma Ruggero e la consorte lo tenevano così forte che quando la musica infine tacque, stanco morto a terra, giacque. Quei birbanti chissà dove sono, basta per oggi, li perdono, ma domani li piglio in 4 e 4 8, e adesso vado a bermi proprio un bel bicchierotto. Gli animali, dopo la festa, tornarono invece nella foresta, dove dormirono 3 giorni buoni per riposarsi di tante emozioni. Sono un noto burattino che non dice mai la verità. Sono cupo senza pigio, ma Geppetto non ci sta. Soffro tanto, senza bisturino, godrei molto con un cazzo. Ecco che il mio babbo me lo fa. Sono un uovo burattino con il mio legno. Sono ceppo con la ceppa, grazie a ceppo mio papà. Se non si china la patatucchina, sento una forza dentro che neanch'io so come. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, siamo qui con Salvatore Callerami, benvenuto innanzitutto sulle frequenze. Ciao a tutti, ragazzi. E parliamo un po' del volume X edito da Shocktom, che sì, è Lui e l'Orso. Come parte, sì, l'idea di questo progetto? Diciamo che Lui e l'Orso è nato nel 2015 ed è partito come un gioco, ma anche come una sorta di coming out, perché ad esempio ancora nessuno sapeva di me, quindi diciamo che per me iniziare a disegnare una coppia di omosessuali era una sorta di, appunto, di coming out sui miei lettori, comunque anche i miei amici su Facebook e tutta la famiglia al completo. Quindi diciamo che è nato come delle illustrazioni e poi successivamente si è trasformato in